con Lisa Gilardino ed Eva Nekliaeva, direttrici della 49esima edizione del Sant'Arcangelo Festival dal 5 al 14 luglio 2019. Ben trovate. Grazie, grazie. Raccontiamo cos'è per chi non conoscesse questo storico festival. Sant'Arcangelo Festival è un appuntamento imperdibile dell'estate, è un festival ormai vivo sul territorio da 49 anni a Sant'Arcangelo di Romagna, che si è, come dire, imposto sull'orizzonte delle arti performative contemporanee a livello internazionale e è una bellissima occasione per immergersi letteralmente in progetti di musica, danza, teatro, circo e arti visive dalla mattina fino a notte fonda, quindi è veramente un'esperienza intensa. Raccontiamo un po' questa edizione, come si caratterizza? Il slogan di questa edizione è Slow and Gentle e offriamo al nostro pubblico la possibilità di essere in questo festival in luglio in Sant'Arcangelo di Romagna in una modalità Slow and Gentle, allora completamente diversa da questi tempi frenici che viviamo. Ci piace l'idea che il festival sia un momento di eccezionalità. E quest'anno l'abbiamo rimarcato anche invitando il nostro pubblico, i nostri spettatori, le nostre spettatrici ad attraversarlo proprio con un ritmo diverso, con l'idea che si possa creare uno spazio e un tempo per fare quasi un allenamento tipo training in palestra per uno sguardo e un pensiero critico. Quanti gli artisti, quanti gli eventi? Abbiamo circa 45 artisti in questo programma e 150 eventi, abbiamo il programma pieno dal mattina a mattina, ogni giorno, ogni notte. Allora, come al solito, immagino che i luoghi saranno diversi all'aperto e al chiuso. Assolutamente, quest'anno direi soprattutto all'aperto, perché vabbè, Sant'Arcangelo di Romagna possiede un solo teatro e quest'anno abbiamo deciso un po' come dire di ascoltare in maniera un po' più profonda gli spazi che abbiamo a disposizione, quindi usare ovviamente la sala teatrale del lavatorio, ma poi le piazze, i giardini, la piscina, le palestre, e davvero ogni angolo diventa un teatro. Un bilancio anche del vostro periodo di direzione rispetto anche per esempio all'ultima stagione? Ma allora, per fare proprio un bilancio bilancio, magari ci risentiamo 15 luglio. Però sicuramente anche questo terzo capitolo della trilogia di Eva e Lisa è un progetto che mette in scena quegli artisti della contemporaneità che hanno un approccio particolarmente fluido rispetto al linguaggio e agli attraversamenti. Abbiamo cercato di immaginare dei formati fluidi di condivisione dei progetti con gli spettatori. Questa edizione in particolare abbiamo cercato come dire, un carattere di veramente intimo e quasi empatico nella relazione tra lo spettatore e il progetto. Ci sono moltissimi progetti per uno spettatore alla volta, quindi sì, abbiamo come dire, messo a fuoco un'esigenza di vicinanza in un certo senso. E rispetto al coinvolgimento della cittadinanza? I cittadini e le cittadine di Sant'Arcangelo sono davvero molto sollecitati durante il festival, ma anche nelle settimane e nei mesi prima. Il progetto che sta per iniziare è forse dei tre quello più dedicato alle produzioni, perché come dire, abbiamo anche avuto l'occasione di chiudere dei dialoghi con alcuni artisti che sono iniziati davvero tanto tempo fa, in alcuni casi anche 2 anni fa, e molti di questi progetti coinvolgono i cittadini e le cittadine di Sant'Arcangelo di Romagna. Proprio oggi è arrivata in città Cristina Norman, un'artista estone, che da 2 anni svolge una ricerca tra Sant'Arcangelo di Romagna e Bologna in complicità e collaborazione con ERTE e Atlas of Transition, sulla comunità delle badanti provenienti dalla zona dell'Europa dell'Est, attive sul territorio. Un progetto insomma, davvero speciale, che è stato anche molto complesso dal punto di vista emotivo, ma che non vediamo l'ora di condividere col nostro pubblico. Per tutte le informazioni ci date i riferimenti internet? Assolutamente sì, www.santarcangelofestival.com, e dal 1° di luglio c'è anche una biglietteria in piazza Ganganelli a Sant'Arcangelo di Romagna, quindi siamo anche raggiungibili per chi abita in zona fisicamente in loco. 49esima edizione del Sant'Arcangelo Festival dal 5 al 14 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento alle direttrici Lisa Gilardino ed Eva Necliaeva. Un abbraccio in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie e ci vediamo a Sant'Arcangelo. Ciao.